La risata bello. Iniziale per Craig ci vuole sempre. Ma comunque benvenuti, no. Benvenuti al nostro podcast de Il Focolare Elettrico. Nuova puntata, seconda puntata. Un nuovo inizio di ancora una volta. Una nuova speranza. In questa puntata appunto che si chiama New Game, dove parleremo appunto dell'inizio dei giochi che ci hanno colpito particolarmente. Siamo sempre io, Marco, qui con voi, e il mio collega. Collega in... Tutto, nella vita. Nella vita. Esatto. Craig, commentato nella... Dovevi presentarti poi a questo punto, quando ti avevo passato... Craig. Sono Jacopo. No, mi ha fatto ridere Craig stavolta perché è andato nella stanza e subito ha gatto come un animale. Cioè, non ha detto now recording in sanscrito. Comunque, sì... Sì, seconda puntata, New Game, di nuovo solamente io e Marco, cercherò di avere qualcuno magari per le prossime, se ma qualcuno sì, è interessato dire... all'argomento. Sono pochi gli eletti che possono d'altronde parlare. Solo chi odia Fortnite. E abbiamo così perso metà dei nostri spettatori. Ci siamo. Perfetto. E quindi... ci teniamo giusto a farvi notare come quanto può essere spocchioso anche il nostro podcast proprio nel voler fare la scaletta, no? prima press start, poi new game, quanto sappio possiamo, quali livelli di sappiaggine possiamo secondo me già al prossimo sarà persa questa cosa. No, cioè, effettivamente ma finché dura godiamocela, no? A questo punto no, non ce la godiamo. Ok. Però sì, questo episodio è molto collegato a quello in precedenza, perché come proprio un giocatore nuovo alla prima esperienza con un nuovo gioco vede nei vari passaggi la struttura con cui è stato composto, all'inizio vede la schermata iniziale, successivamente quando preme New Game vedrà l'inizio del suo nuovo gioco. Ed è proprio questo inizio, diciamo, che dà un po' il tono a tutto quello che verrà a seguire. E ovviamente, come per tutte le creazioni umane, c'è chi inizia bene e chi inizia male, per così dire, su certe cose. Quindi, chi comincia tra noi due? Non lo so, puoi cominciare tu, sei un esempio... Perché, vabbè, valgono, diciamo, gli stessi discorsi in generale che abbiamo fatto l'altra volta, quindi... Cioè, stabilire un tono, mettere un po' di contesto sull'avventura, sul gameplay, cose così, però appunto come esatto. ci sta chi lo fa bene e chi lo fa male. Innanzitutto io vorrei partire magari dando una piccola definizione di incipit, o inizio di un nuovo gioco, perché si può intendere sia come l'inizio di una semplice storia, cioè l'inizio narrativo di tutta la faccenda, come così i primi 10 minuti di un film o le prime pagine di un libro, ma i videogiochi, quelli fatti bene, almeno secondo mia modesta opinione, nostra modesta opinione, spero, i videogiochi buoni sono quelli che insieme all'inizio della storia riescono a darti un'idea di come sarà il gioco vero e proprio anche in quei primi minuti, ovvero quelli che riescono a fondere il tutorial con la storia del gioco. Aspetta, mi hanno insultato. Aha, Salla. Ovviamente. Salla mi ha insultato. Lo prendo sempre come default. Esatto, default, Salla che ci insulta è il default. No, il nostro caro padrone e creatore dell'icona del focolare elettrico, Salla, ci ha fatto notare che alcuni termini, alcuni concetti che esprimiamo, diamo un po' per scontato che tutti riconoscano, diciamo. È un'ottima osservazione questa. Tipo tutorial, che cazzo vuol dire tutorial? Perché anche nella scorsa puntata ne abbiamo parlato, quindi facciamo una mini definizione di qualche parola. Infatti, ci sta. Con tutorial di gioco si intende quel processo, tipicamente all'inizio di un videogioco, perché metterlo alla fine sarebbe abbastanza stupido, in cui si insegna al giocatore, si spiegano come deve affrontare le meccaniche del gioco, ovvero gli si insegnano i comandi, dal come muoversi a quali usare per attaccare un nemico, per risolvere un enigma o cambiare equipaggiamento, per così dire, a proprio diciamo, l'idea dietro alle meccaniche di gioco, cioè quali in una certa situazione sai che ci dovranno dovrei fare una scelta su come agire, e ti spiega magari i fondamenti su se fai quest'azione che cosa perdi o se fai quest'altra che cosa guadagni. Sì, a livello fondamentale tutorial appunto è tipo tutoraggio, cioè tipo qualcuno che ti insegna qualcosa. Esatto. E è un po' come all'inizio di un film o di un libro che tu stabilisci una specie di patto con lo spettatore. Tu stai guardando un film, magari il film, che ne so, è su alieni che si picchiano. Il patto che stabilisce è che il fatto che ci sono alieni, che esistono gli alieni e che si picchiano è realistico. Se vogliamo fare proprio l'esempio banale, è tutta la la poesia all'inizio del Signore degli Anelli, dove ti spiega che c'è questo anello e che probabilmente c'è qualcuno che lo vuole distruggere e che probabilmente sono cazzi. Cavolo, esatto, un bel controesempio. Esatto. E come nel Signore degli Anelli ci sono modi diversi di farlo, perché ovviamente nei giochi devi non solo stabilire appunto qual è l'universo, quali sono le regole di questa storia, quindi c'è un anello, c'è un tizio cattivo e bla bla bla, devi anche stabilire quali sono le regole di gioco, perché tu come giocatore devi interagire con qualcosa, quindi stabiliscono le regole del come interagire con questo mondo, e ci sono modi, diciamo appunto, mettiamo migliori così e peggiori, diciamo. No, ma anche più espliciti e meno espliciti, cioè più sottili di farlo. Magari nel Signore degli Anelli te lo dice, cioè Kate Blanchett che te lo dice proprio quello che è successo. Magari in un altro film, nella scena iniziale, c'è una telecamera che gira per una stanza e ti presenta solamente visivamente quello che è successo, tu devi un po' indovinarlo. Pensando se mi veniva qualche esempio, ma non mi sta venendo. Tipo la finestra sul cortile di Hitchcock, una cosa del genere. Comunque, vabbè, ottimo esempio. Ok, ci siamo. Questi sono i tutorial. Andiamo avanti. Esatto. Ora, perché è bene definire questa cosa? Perché se con un film lo spettatore può accettare l'idea di doversi guardare 10 minuti di spiegazione iniziale senza dover fare niente, in quello che è andato a vedere il Signore degli Anelli se l'è guardato anche con interesse, Galadriel che gli raccontava tutta la storia dell'anello all'inizio del film. Ora, un videogioco è già tanto chiedere a un giocatore di starsene 10 minuti con il controller in mano seduto mentre si legge 26 schermate di spiegazioni su quali comandi utilizzare durante il gioco. Esatto. Per questo, secondo sempre mia opinione, i tutorial migliori sono quelli che o a volte si può dire quasi non sono necessari, perché il gioco è talmente intuitivo e immediato che non esiste nemmeno stavi un vero per dire tutorial. Banale, attenzione, stavi sì, per dire però banale. Immediato è più però quello è talmente raro che proprio a parte i minigame che si trovano sul cellulare o appunto minigame come minigiochi in altri giochi più grandi è difficile trovarne. E invece no, ti farò un controesempio. Assolutamente, io vivo per i controesempi. Oppure appunto deve essere integrato magari con la narrazione iniziale che ti dà un'idea su quello che andrai a fare nel mondo di gioco. E visto perché alla fine, voglio dire, i cliché sono cliché per un motivo, e l'incipit di questo gioco è stato talmente tanto discusso e parodiato, sì, credo, e rielaborato. Ha preso per il culo, sì, è memato. Esatto, talmente tanto perché c'è un motivo. Quale gioco però, Spen? Esatto, quello proprio quello di cui volevo discutere adesso, ovvero l'inizio di Skyrim. Quindi, mentre la schermata si fa scura... Ah, Jacopo, c'hai sempre il modo di sorprendermi. Esatto. Finalmente ci svegliamo in questo carretto e subito abbiamo un altro personaggio del gioco che ci racconta un po' come siamo arrivati lì. Ci dà qualche idea, qualche accenno dell'inizio della storia di questo mondo, che esiste questo conflitto tra due fazioni che a quanto pare... E ci fa credere anche per un po' che sia questa la storia principale del gioco, questo conflitto tra gli Stormcloak e l'Impero, che hanno appena catturato il re, quindi sono un po' tutti nella merda, per così dire. Il gioco prosegue fino alla creazione del personaggio, eccetera, eccetera. Ma la parte importante, dopo un poveraccio che viene decapitato proprio prima che il cielo gli crolli sulla testa, perché se, guarda, se aspettava un pochino quel poveraccio riusciva anche a salvarsi, ci introduce la vera missione del gioco, ovvero l'impedire il ritorno dei draghi nella terra di Skyrim. E va bene, tutto molto interessante, ma quello di cui voglio parlare è quello che succede quando il giocatore prende i comandi di gioco. Rialzandoti dal ceppo del boia, il giocatore può iniziare a muoversi, e a quel punto ogni azione base del gioco viene raccontata attraverso la storia della fuga del protagonista da questo campo di imperiali fino alle praterie, non sono praterie mai, di Skyrim. Il giocatore inizia prima a muoversi, a imparare a guardarsi intorno, poi quando le corde che gli levano i polsi gli vengono tagliate, lo potrà iniziare a interagire con gli oggetti di gioco tramite pulsante destro e pulsante sinistro del mouse, imparerà a correre, a saltare per scappare da una torre in fiamme praticamente, imparerà ad attaccare i nemici che cercheranno di fermarlo dal fuggire, e già subito nel gioco gli fanno scegliere, diciamo, una specie di... Già all'inizio del gioco c'è una scelta su quale delle due frazioni vorrà andare ad aiutare durante il resto dell'avventura. Sì, non è vincolante, però... Sì. Esatto, non è vincolante, però è già una scelta, ed è bello che ci sia, che uno può già decidere fin dall'inizio del gioco, deve capire, capisce fin da subito che questa linea di quest, questa storia dovrà per forza essere vissuta da una delle due posizioni. O da questo... Esatto. Prego. Dimmi pure. Sono due posizioni di merda, stavo per dire. quello è un altro discorso, poi purtroppo per ora parliamo solo dell'inizio. Cioè, uno è la Lega Nord e l'altro sono i nazisti, cioè è questa la scelta, non esiste altro. Vabbè, lasciamo perdere comunque. Politica a parte, a questo punto il giocatore imparerà a scassinare se vorrà intraprendere la via del ladro, imparerà a lanciare magie, imparerà a combattere con armi bianche o armi a distanza, a seconda di quello che desidera fare, e tutto questo integrato nella storia del proprio in questa piccola storiella di come il giocatore è arrivato a questo campo di imperiali e poi come è riuscito a fuggire. E quando il giocatore esce dalla grotta, che è la fine di questa piccola missione iniziale, sa già praticamente tutti i comandi che gli potranno servire nel mondo di gioco. Quasi tutti i comandi che gli potranno servire nel mondo di gioco. Meccaniche più complesse come la forgiatura d'armi e di pozioni e di incantamenti, quello verrà spiegato più avanti. Anche gli urli, però anche lì è... E anche per quella meccanica c'è una zona integrata con la storia che funge proprio da tutorial. Un attimo, sei laggato, non so se Craig ha registrato... Giustamente. Diceva Jacopo, anche per gli urli non viene spiegato del tutto. Ci sta, perché anche lì, effettivamente, se ci si pensa, ci sarà un secondo, tra virgolette, tutorial per quando la missione, sempre integrata con la storia, andrà a parlare anche di questa meccanica. Però, è anche questo l'interessante, perché se uno decidesse, per come è stato scritto e costruito Skyrim, di ignorare completamente la quest iniziale, alla fine... La meccanica degli urli potrebbe non incontrarla nemmeno mai, per come ha deciso di giocarla. Se nessuno decide di continuare la sua quest e di diventare, spoiler, il Dragonborn, 9 anni dopo, ma sempre spoiler, non si sa mai. Dovahkiin. Se uno decidesse di non voler seguire la storia principale e non diventare il Dragonborn, non potrebbe giocare tutto il gioco senza utilizzare mai gli urli o questi poteri sovrannaturali che hanno il protagonista. Ma c'è gente che proprio di proposito evita la quest principale. Io tra i molti, assolutamente. Allevatore di galline. Però è questo che, di cui volevo parlare, che questo tutorial, questo è l'esempio di un buon tutorial iniziale. Il tutorial che è fatto la prima volta ti spiega, diciamo, tutto quello che ti serve per poter sopravvivere e vivere in questo mondo di gioco. Questo episodio è dedicato a Gianfe. Giustamente. Ho 500 ore a Skyrim. Come è giusto che sia. E questo mi permette anche di dire una cosa di... che la gente non ci pensa tanto, però è una cosa che col senno di poi si nota. Questo è uno dei tutorial migliori che abbia incontrato probabilmente in tra tutti i giochi che ho giocato. Ti spiega assolutamente... non solo ti spiega come fare, ma te lo fa fare proprio lì sul momento, ed è quella la cosa importante. Ti fa provare la meccanica di gioco e in quel modo assimilare molto meglio, piuttosto che mandarti una schermata a schermo. Metterti una schermata su schermo che ti spiega le varie cose. Poi c'è da dire però che, e questa è una cosa importante per tutti i membri della Bethesda che ci stanno ascoltando, migliaia probabilmente, per l'amor di Dio, in un gioco soprattutto come Skyrim, in cui una delle gioie più grandi è il rigiocarci, date la possibilità di saltare il tutorial iniziale. Non perché sono d'accordo. La prima volta è bello, la seconda volta anche. Già dalla terza volta fai fatica, secondo me. Non sono d'accordo, Marco. Ottimo, mi dica la sua opinione allora, dottor... No, non sono d'accordo perché Skyrim non è un gioco fatto per essere rigiocato, è un gioco per essere giocato una volta 300 ore e poi basta. Ah, ok. Poi alla fine devi dimenticartelo, non esiste. Immagino che ci siano varie correnti di pensiero. Comunque, se tu dici che a livello di tutorial, se il tutorial è troppo lungo e insegna cose che non sono, diciamo, critiche per uno che l'ha già giocato, cioè magari non ti serve ricordarti una cosa così fondamentale come il movimento, ti serve solamente creare il personaggio e magari altre due o tre cose su... Diciamo che secondo me è giusto che un tutorial spieghi, soprattutto per un gioco complesso come Skyrim, spieghi tutto quello necessario per giocare al gioco, e quindi uno che ci gioca la prima volta il tutorial lo troverà essenziale e assolutamente ben fatto. Tuttavia, siccome siamo arrivati a un certo punto nello sviluppo dei videogiochi, cose del genere, che in cui si sa che le persone non sono, cioè sono solite anche rigiocare lo stesso gioco più e più volte, permettergli di saltare il tutorial in giochi in cui un tutorial è lungo come questo qua è assolutamente un'ottima idea, secondo il mio punto di vista. Okay. Infatti, per fare un altro piccolo esempio proprio collegato a questo, un altro gioco che è praticamente l'equivalente, che secondo me lo fa giusta questa cosa, e se guardiamo la prima missione di Fallout New Vegas. E oddio, me la ricordo. Pensi, la prima missione di Fallout New Vegas è praticamente l'analogia esatta del tutorial di Skyrim. Se in Skyrim ti fa scappare dall'attacco dei draghi all'accampamento imperiale, in New Vegas ti risvegli nella stanza del... Ah, è vero! Del dottore. Parte subito con la creazione personaggio, e anche lì, piccolo punto di vantaggio a New Vegas, non c'è tutta l'introduzione del "Ah, you are finally awake!" Che interessante, di nuovo, la prima volta, ma la seconda volta, anche lì, il poterla saltare sarebbe carino. Andare direttamente alla creazione del personaggio come in New Vegas, l'assegnazione delle abilità, l'assegnazione dei talenti, e letteralmente una volta uscito di casa dal dottore, dopo che hai creato il tuo personaggio, è già iniziato il gioco. Tecnicamente il tutorial, non esiste il tutorial vero e proprio. Esiste quindi è il contrario di Skyrim. Esatto, diciamo che esiste, ho capito male. Okay. Esiste la prima, più o meno, in realtà sì e no, perché esiste la prima missione che è talmente difficile, soprattutto per un giocatore alle prime armi, saltare nel mondo di gioco, perché per come è costruito il gioco ti viene naturale indirizzarti proprio a chi ti offre la prima missione di gioco, e questa prima missione di gioco è proprio il tutorial del gioco. Nel bar della città, di cui adesso mi sta sfuggendo il nome, se, qualcosa Spring, che non mi viene adesso, incontri Sunny, questa specie di ranger, un cacciatore che vive nella città e aiuta i suoi abitanti, che ti insegnerà ad utilizzare le armi da fuoco, ti insegnerà a dare la caccia agli animali, ti insegnerà a fare stealth e tutto quanto, per poi concludersi con tu che, una volta aiutata Sunny, decidi di aiutare anche il resto della città per combattere una banda di... Vabbè, sì, non è... Non è così. Comunque, anche questa cosa introduce poi concetti di gioco come il karma, le fazioni, Quindi tu dici, diciamo, al contrario di Skyrim, New Vegas... Al contrario di Skyrim, e qua ci sono, ho dilungato un po' troppo, al contrario di Skyrim, New Vegas ti permette assolutamente di fare questa missione, anzi, ti ci porta naturalmente a farla. Però, se tu decidi di allontanarti dal villaggio iniziale, lui ti chiede proprio, vuoi confermare questi parametri di gioco, non cambiare più niente? Tu dici, ok, hai saltato il tutorial e sei dritto nel mondo Fallout New Vegas senza aver bisogno di fare nulla. Figo. È un buon modo per mantenere l'immedesimazione del personaggio senza però rompere del tutto la fluidità del gioco. E ho parlato anche troppo adesso, per favore Jacopo, parla un po' tu. No, volevo continuare questo discorso per dire, cioè, non è che per forza, come dici tu, devi fare un tutorial che spiega tutto al giocatore, che lo prepara completamente, cioè, appunto, neanche devi fare un tutorial che per forza devi giocare, perché alla fine, cioè, è un po' come un film, non tutti quanti i film sono fatti per essere guardati più di una volta. Non tutti i film sono belli perché possono essere guardati più di una volta e ogni volta ci vedi qualcosa di nuovo. È vero che però, cioè, la maggior parte dei film belli hanno qualcosa in più le volte successive che li riguardi. E secondo me quella cosa in più non è nel poter magari saltare un tutorial, ma nel giocare qualcosa che ha tanti dettagli, tante cose nuove ogni volta. Tipo... stavo ripensando a alcuni alcuni incipit che effettivamente non ti insegnano nulla, cioè nel senso ti insegnano poco del gioco, ma sono di effetto, cioè ti insegnano qual è il centro, cosa sta succedendo nel gioco, cioè qual è il punto del gioco, tipo The Last of Us. C'è questo incipit stupendo. Allora, devo ammettere che secondo me il gioco è bellissimo e fa tante cose di cui magari parleremo in altri episodi molto bene, a livello di design e di storia. Certo. Non è il gioco migliore della storia, come molti dicono, però i primi 10 circa minuti sono una cosa fenomenale. Non fanno nulla di nuovo a livello di meccanica, a livello di convenzione del design di gioco, però certo, a livello di storia hanno un impatto incredibile per come è stato strutturato. Adesso non voglio, chi se ne frega, ve lo spoilero tanto, cioè, se non ci avete giocato a cazzo vostri. I primi 10 minuti, quindi non è uno spoiler, no. Lo diciamo, non accettiamo cause legali per questo. Allora, in The Last of Us la storia è di un certo Joel e il gioco si apre con questa scena molto, diciamo, affettuosa di lui che è padre, c'ha la figlia sul divano, stanno guardando qualcosa, si scambiano cioè si parlano, e già lì in quel dialogo viene fuori un po' la personalità di entrambi, l'umorismo, c'è lei che tipo gli regala un orologio, mi sembra. Uh-huh. E scherzano un po' su alcune cose, viene fuori anche qual è una parte importante dei giochi su cui magari parleremo in futuro, cioè la tecnologia che c'è dietro riguardo la performance, quindi ci sono degli attori, certo, anche su questo parleremo in futuro, che stanno interpretando i personaggi a livello di movimenti, a livello di espressioni facciali, si parlano e quindi hai questo contatto umano con loro due. C'è la successiva, lei si alza e sente dei rumori, vede che c'è qualcosa che non va in casa e tu controlli lei, quindi tu, diciamo, in una specie di tutorial, che non è proprio un tutorial, stai controllando il suo movimento nella casa, quindi c'è la telecamera che la segue alle spalle, tu la fai muovere per la casa, interagisci con qualcosa, tipo con una porta così per aprirla, e stai, diciamo, emotivamente ti stai immedesimando in lei. Quindi scendi per la casa, alla fine, insomma, viene fuori che c'è uno scenario apocalittico in corso. Cioè le persone stanno impazzendo, stanno diventando degli zombie, più o meno. Entra in casa all'improvviso, spaventandola, il padre Joel, la prende, la ficca in macchina non mi ricordo se il fratello o un amico, così, e partono. E praticamente nel resto dell'introduzione non puoi fare nulla, puoi solamente guardare e decidere da che parte guardare della macchina, da dentro la vettura. Ed è bellissimo perché, appunto, puoi scegliere dove guardare e ci sono tante cose che ogni volta che magari la rigiochi, che guardi questa scena, non avevi notato. Magari stai guardando da un'altra parte, su quello che sta succedendo intorno, sulla distruzione, su quello che si stanno facendo le persone, su, non so, tante tante cose. Alla fine c'è un incidente e c'è Joel che prende in mano la figlia e da quel momento in poi tu controllerai Joel per la maggior parte del gioco, non voglio spoilerare troppo, però che succede? Che a un certo punto, scappando da questi zombie, arrivi davanti a un militare. Ah, quindi la sai questo incipit? Lo so. L'ho giocato anch'io, questo, ma lo stiamo raccontando al pubblico adesso. Insomma, in poche parole, nel giro di 30 secondi il mondo di Joel viene distrutto, perché questo militare all'inizio pensi che sia la tua salvezza, riceve un ordine dall'alto e senti, ma è solo una bambina, una cosa del genere. In pratica il militare apre fuoco su Joel e uccide la figlia di Joel. Ma quel momento che tu dici, cavolo, ma che vuol dire? Cioè, nel senso, a livello di storia, non è questo grande momento, a parte che, vabbè, è morta la figlia di qualcuno, ma ha questa risonanza con i giocatori e ha avuto questa risonanza con me, secondo me, perché sei stato con lei per una gran parte del gioco. Assolutamente. Momento. Perché hai avuto una connessione emotiva con lei, con il padre e con la loro relazione, cosa su cui il resto del gioco è fondata. Poi, ma non voglio dire troppo sul resto, perché poi il gioco si apre diversi anni dopo, è più post-apocalittico, però questo secondo me è un buon modo per calarti subito su qual è la tematica, non solamente di gameplay, ma anche a livello narrativo. Ed è una cosa che fa anche God of War, questo ne abbiamo già parlato, mettendoti subito in questa situazione dove la moglie del protagonista è morta e ha questo figlio di cui si deve occupare, e anche se non hai giocato i precedenti capitoli, capisci subito qual è quali sono i suoi problemi, quali sono le cose con cui sta combattendo, diciamo, internamente, quali sono anche i problemi che ha il figlio, in un certo senso. Quindi anche quello è un altro esempio di come presentarlo, di come presentare queste meccaniche narrative, mettiamola così, di gioco. E appunto, cioè, ti ripeto, non sono propriamente tutorial, perché non sai nulla di più del gioco quando finiscono. Ti catturano, cioè sei dentro, dici, cavolo, voglio sapere adesso, cioè, cosa succede. Sei già calato nel mondo. Ed è una cosa che fa, per esempio, anche Fallout 3. Però più a livello di Skyrim, dove ti sta forzando a imparare delle cose, dove tu parti che sei un bambino, insomma, fai tutta un po' la vita del bambino fino a che non diventa un adulto e gli presentano queste meccaniche, questi episodi di vita che insegnano qualcosa a te come giocatore e anche al protagonista. Quindi, insomma, è non lo so, dipende dal gioco quello che puoi scegliere come... Secondo me hai fatto un buon esempio nel dimostrare come anche il focus del gioco influenzi molto, l'incipit, come recepiamo il suo incipit, se buono, se è venuto bene o venuto male. Sì, fammi ripetere la frase. Il focus del gioco è anche quello che influenza su come percepiamo il suo incipit, ovvero se è venuto bene o è venuto male. Se il gioco è più incentrato sulla storia in sé, più che sul gameplay, come nel caso appunto di The Last of Us, questo incipit che è più incentrato sull'immedesimazione del giocatore con la figlia del protagonista e poi col protagonista stesso, quindi molto più narrativo rispetto a quello di Skyrim o di Fallout di cui parlavamo prima, che sono più meccanici, per così dire, funziona molto meglio in questo caso, perché se il punto di forza di The Last of Us è la sua storia più che le sue meccaniche di gameplay, che alla fine è uno stealth sparatutto abbastanza normale, non brutto assolutamente, buono in tutti i sensi, però è più la storia che ha fatto rimanere The Last of Us inciso a fuoco nelle menti di chi ci ha giocato. E questo incipit narrativo è proprio quello che gli serviva per introdurre il giocatore al mondo di gioco, alla storia, come si svilupperà la relazione tra il protagonista e la coprotagonista. Mentre in Skyrim, che sinceramente succede abbastanza l'opposto, perché io non penso che tutti si siano innamorati di Skyrim per via della sua appassionante storia principale o le missioni primarie così rivoluzionarie. Esatto. In Skyrim la storia è un bello sfondo su cui poter controllare questo personaggio, il Dovahkiin, che è in grado di fare tutto quello che desidera e quindi rende le meccaniche di gioco, il modo in cui interagisci col mondo, il tuo giocare veramente di ruolo, la parte principale del gioco. E quindi questo tutorial resta impresso perché ti dà esattamente quello che ti serve sapere per giocare e fare quello che vuoi, senza appesantirti troppo con tutto il mondo di gioco e tutta la storia. Però ti dirò, a me è rimasto più impresso, anche se sono magari della stessa categoria, mi è rimasto più impresso il tutorial di Fallout 3, o per dire anche altri tutorial classici, Brutal Legend, Psychonauts, Doom, Half-Life 2, cioè sono tutorial che secondo me hanno più mantenuto nel tempo quel senso di, non lo so, cioè quel senso di memorabilità del tutorial stesso, non del momento, quello magari del drago che arriva o del meme all'inizio. Certo. Ma ammetto che nessuno di questi giochi ha qualcosa di particolare, a parte forse Fallout 3, a parte forse un po' Skyrim. Sono tutti quanti insieme, cercano di buttarti un po' subito in mezzo come giocatore e cercare di presentarti le meccaniche che dovrai usare. Infatti. È un po' la storia, non è qualcosa di come posso dire, che va contro quello che devi fare nei primi 15 minuti o 30 o un'ora, non so, beh, quello dipende anche dal gioco. O anche Final Fantasy VII, la famosa bombing mission all'inizio che è passata alla storia, non ti dice nulla di più di un altro gioco. No, infatti, assolutamente. Ma infatti noi adesso stiamo parlando dell'inizio di un gioco, per come il primo, proprio quello che vedi come prima cosa. Sì, i primi momenti. Esatto, i primi momenti. Poi come si sviluppa... Ora, c'è da dire che è difficile parlare di un gioco che ha un ottimo inizio e poi una pessima fine, perché di solito se la casa produttrice e gli sviluppatori hanno avuto il tempo di lavorare ad un buon inizio, vuol dire che probabilmente prima hanno anche lavorato a un buon intermezzo e probabilmente, salvo rare eccezioni, anche una buona fine. Ti dirò, invece esistono. Ho detto salvo rare eccezioni, quindi infatti... Assumo assolutamente che esistano eccezioni alla regola, anzi se ne hai qualcuna con... Ah, tu non ne hai? Non su due piedi così, okay. Cioè... Allora. Non su quelle che volevo parlare oggi, perché di nuovo concentrandoci sull'inizio di un videogioco, poi magari di un finale, di un intermezzo, ne parliamo poi un'altra volta. Allora, premetto che sono giochi che amo, prima che... Giustamente. Qualcuno, ok. Per me Halo 2... ha un inizio per me molto memorabile, cioè me lo ricordo quasi a memoria, mi ricordo quasi a memoria tutti i dialoghi, perché sono un fan di merda, perché ma anche perché mi ricordo a quell'epoca che cambiò, per me cambiò tutto in quel momento, cioè vedendo i primi momenti cambia tutta l'idea che avevo in testa di quello che era Halo, cambiò. Prince of Persia, che diciamo finale bello, ma all'inizio mi ricordo c'è i primi momenti in cui piano piano scopri cosa sta succedendo, capisci cosa sta succedendo anche a livello di meta narrativa, cioè perché molto velocemente. Il primo Prince of Persia nuovo, cioè il primo Prince of Persia è quello per PlayStation 2 Xbox rifatto, Le Sabbie del Tempo, c'era il principe che all'inizio raccontava la sua storia a qualcuno che tu ancora non conosci. Ah sì, quello l'ho visto anch'io. E quando morì, esatto, e quando muori durante i primi momenti, che magari può capitare che non sei un esperto e muori, lui dice no, non è andata così, e quindi già ti presenta... Oh, quello è un'altra cosa di cui vorrei discutere poi in un altro episodio. In un altro episodio. E ti presenta anche l'inizio del gioco con... come posso dire... con delle idee che secondo me alla fine non sono state esplorate completamente del tutto. Non sono state esplorate bene. Però vabbè, lasciamo perdere. Un altro gioco che inizia benissimo e poi non finisce altrettanto bene è Far Cry 2, Far Cry 3 e Far Cry Blood Dragon, secondo me. Uh-huh. Sono tre giochi che mi sono piaciuti tutti e tre, però gli incipit, a parte forse Far Cry 2... non sono a te tanto interessanti quanto i veri finali, mettiamola così, i finali finali. Per poi parlare. E quindi tu qui stai argomentando che spesso bisogna fare attenzione che a volte c'è un buon inizio e una brutta fine, e viceversa, tu dici, non sempre l'incipit di un gioco rappresenta il resto. Esatto. Ma quello, per esempio... Diciamo che quello si ovvio. Può dire di tutto per qualsiasi tipo di opera d'arte, narrativa, a questo punto, si può dire. Sì, però, ci sono anche inizi che sono belli solamente perché sono una cosa inaspettata, ma solo la prima volta. Tipo, per capirci, Assassin's Creed 1. Mm-hmm. Assassin's Creed, vabbè, penso lo sappia pure, non so, mia madre che cos'è Assassin's Creed ormai, però... È questo gioco che, vabbè, ora è famosamente un gioco diciamo, ambientato in momenti storici ben definiti, tipo l'antica Grecia, la Roma del Rinascimento, non so, i Caraibi nell'era dei pirati, così. Esatto. Questi momenti storici che sono presi come spunto per farci sopra dei giochi di solito di combattimenti e un po' di assassinio, furtività, ma anche combattimenti con le navi. Adesso è diventata una cosa enorme, complicata, tipo un gioco di ruolo. Però, diciamo, il primo gioco, quando veniva presentato alle fiere, quando veniva quando c'erano dei trailer nuovi, dei filmati per pubblicizzarlo, da nessuna parte... nessuna parte era stato annunciato che fosse un gioco in realtà su una persona che nel presente riviveva le memorie di un suo antenato, perché è questo che è in realtà Assassin's Creed, è qualcuno che sta rivivendo memorie di qualcun altro. E quando ci fu una specie di leak, una specie di fuga di notizie pochi giorni prima della release, di questa immagine di una persona davanti a dei server, e sottoscritto questo è Assassin's Creed, e nessuno dice ma che cazzo, quindi è questo che volevano dire quei geroglifici durante i filmati, c'erano dei strani simboli. Effettivamente, non sapendo questa cosa, l'inizio di Assassin's Creed è spiazzante, perché tu inizi pensando di giocare a questo gioco tipo Prince of Persia, no, sul passato, dopo qualche minuto sei tipo in mezzo a tipo una simulazione, uno spazio vuoto, certo, delle persone senza faccia. E poi ovviamente, cioè, sapendo adesso che cos'è Assassin's Creed, c'è tutto dietro, è inutile, cioè nel senso, cioè, ovvio, no? Tutorial, però questo, sempre per rimanere sul tema inizio videogiochi qua, secondo me questo è un ottimo esempio per tutte le persone che ritengono che magari i videogiochi non sono allo stesso livello scusate, allo stesso livello di altre forme di narrazione, sto dicendo che non siano allo stesso livello di altre forme di narrazioni. Questo è un esempio eclatante per dire che non perché solo ci fanno divertire, ci fanno giocare, ci fanno fare gli assassini che le lame nascoste, non vuol dire che non ci sia un lavoro dietro di storia e narrazione altrettanto complesso e sofisticato. Beh, oddio, qualche Assassin's Creed non ci sta molto dietro. Ovviamente adesso, con eccezioni, cioè... come normalmente sia. Poi ricordiamo che esistono anche film come Mega Shark versus Octopus. Cui esatto, non è che possiamo dire che tutte le forme... No, però... con tutte le forme d'arte. Tipo nel 3, nel Assassin's Creed 3, tu cominci il gioco pensando di giocare appunto come al solito come un assassino di questa setta di assassini con questa filosofia dietro. E di nuovo spoiler per tutti gli spoiler, questo un po' più importante di Assassin's Creed 3, a un certo punto della storia, dopo qualche ora, tra l'altro anch'io pensavo, vabbè, questo è il gioco, questo è il protagonista, pensavo forse mi sono sbagliato, avevo letto un po' male il marketing del gioco, scopri che in realtà stavi giocando il padre del protagonista, che è in realtà un templare, che i templari sono i cattivi, tra virgolette, esatto, dei giochi Assassin's Creed. Ed è bellissimo perché il terzo gioco finalmente hanno un po', come dire, internalizzato, hanno un po' ammesso i creatori di Assassin's Creed che in realtà la filosofia degli assassini e dei templari, che sembrava così, così diversa, così, in realtà è molto simile a livello di come trattano. Lì è come hanno voluto evolvere la storia. E in realtà non si, volta, anche non si è voluta per niente, ha fatto cagare, vabbè, però lasciamo perdere. però sì, nuovo di Assassin's Creed. Questo chiude un po' il discorso di giochi che iniziano bene e poi non finiscono. Episodio sull'evoluzione dei vari brand. Però, visto che prima mi avevi accennato che, dicendo appunto che ci sono giochi che non sempre fanno, come dicevi, fanno un buon incipit, ma che comunque poi però risultano essere comunque buoni giochi, mi è fatto tornare in mente un esempio che di cui volevo parlare. Sempre da un punto di vista meccanico. Aspetta, stai andando un po' scatti, scusami. Non so, perché mi attrae un po' di più quella parte in generale. Aspetta, dicevi giochi che iniziano un po' male, sì, ma poi si... Dicevi giochi che iniziano male, ma poi si riprendono. Va meglio adesso sì, la voce? Vai. Ok. Giochi che iniziano male, ma poi si riprendono. Mi hai fatto tornare in mente un esempio, sempre dal punto di vista più meccanico della questione, che è quello che un po' forse mi interessa di più. Non so se qualcuno degli ascoltatori o anche tu, a dire il vero, abbia mai giocato alla versione 1.0 di Dark Souls. Nella versione 1.0 di Dark Souls, anzi, partiamo dal principio, per così dire. Anzi, da lì in questo caso. Nell'ultima versione di Dark Souls, quella diventata non commerciale, quella che si gioca adesso, quella che se vai a comprarlo su Steam è quella che ti scarichi, noterai che l'incipit, a parte il filmato sempre da brividi della voce iniziale che ti racconta la storia dei draghi, del mondo e di tutto quanto, il tuo tutorial iniziale consiste nell'abbandonare il manicomio dei non morti. E nel tuo procedere attraverso le varie stanze, i vari boss, i vari nemici, ci sono dei messaggi scritti a terra che ti insegnano, in caso di necessità, i comandi di gioco. Quando trovi, appena uscito, diciamo, dalla stanza iniziale, cioè, ti dice levetta a sinistra per spostarti, sì, levetta a destra per guardarti attorno, eccetera, eccetera. E vengono creati nel mondo di gioco come questi messaggi che i giocatori poi, più avanti nel gameplay, possono lasciare per altri giocatori. Quindi tu dici, ah, questo tutorial è tipo un giocatore passato che ha creato questi messaggi per lasciarli a noi non morti, nuovi, che ci troviamo all'inizio di questa avventura. No, non ci ho mai pensato. Okay. Ora, nella versione 1.0 questo tutorial non c'era. Ah. Questo tutorial non c'era. Infatti, una delle cose che ha reso difficile Dark Souls da approcciare, soprattutto per i novizi, per quelli che non erano quelli veramente le prime armi, non che non avevano veramente poca esperienza in generale ai videogiochi, era che non esistesse nessun tipo di tutorial nella versione 1.0 del gioco. Ma che e quindi non c'erano spiegazioni su come attaccare, su come, vabbè, come muoversi era abbastanza semplice, ma come attaccare, come fare i parry, che sono una meccanica abbastanza essenziale del gioco vero e proprio, come, e tutte quelle sottigliezze, diciamo, che quindi rendono abbastanza spaesato il giocatore alle prime armi. Cavolo. Ed è stato aggiunto in uno degli aggiornamenti successivi, quindi, per dire, anche un gioco che è diventato un cult come Dark Souls, all'inizio anche lui forse voleva essere fin troppo critico per chi ci si approcciava la prima volta. Aveva questa idea di mistero e questa storia nascosta che uno doveva andarsi a cercare per poterla capire, e questa meccanica di difficoltà assoluta di try and error, cioè dovevi tentare e fare vari tentativi per capire come funzionava qualcosa e procedere nell'avventura, era spinta a livelli anche eccessivi per i giocatori che non erano super esperti. E quindi questa può essere anche controproducente. Infatti, una delle prime cose che hanno fatto negli aggiornamenti successivi, oltre a aumentare il drop, cioè la quantità di, diciamo, chiamiamoli punti esperienza per chi non è avvezzo ai Dark Souls, e chiamiamole anime per chi è avvezzo, dopo aver aumentato le anime che droppavano, per esempio anche i boss, che all'inizio davano una miseria con cui non riuscivi nemmeno a farti un livello, hanno aggiunto anche un tutorial iniziale per chi si approcciava la prima volta. Però è interessante perché secondo me entrambe le scelte hanno qualcosa, nel senso, hanno qualcosa di valido. Cioè, sia mettere quelle scritte per terra e farti un po' introdurre a lasciare dei messaggi magari un po' più positivi che non great chest ahead o cose stupide, certo, tipo finger battle, eccetera. Però come posso dire? A me piacciono anche i giochi che ti buttano là, in mezzo, certo, cioè assolutamente. Che ti insegnano cose, magari, cioè, ovviamente devi farlo con criterio, non devi punire troppo. Ninja Gaiden, primo Ninja Gaiden, il tutorial finisce, cioè il primo livello finisce con il boss più difficile del gioco. E non sto dicendo, cioè non è un'esagerazione, è letteralmente il boss più difficile del gioco. Letteralmente. Buono sapersi. E infatti sono la metà di talmente tanto che hanno fatto uscire la versione Black dopo qualche anno con il primo boss nerfato. Comunque, vabbè, giochi che ti buttano in mezzo e che ti insegnano cioè come giocare, secondo me hanno un... hanno due cose, come posso dire, due vantaggi. Cioè, il primo è che se riescono a catturare la tua attenzione, sei ancora più investito perché sei completamente incaricato del tuo stesso tutorial, cioè sei tu che ti stai gestendo i tempi, certo, e come stai imparando le cose, e se fatto bene non te lo fa pesare. Tipo, c'è un video bellissimo che invito chi è interessato all'argomento a guardare, di un certo Egoraptor, che adesso, vabbè, semplicemente Arin, non mi ricordo il cognome, è uno che adesso fa i let's play su YouTube come Game Grumps, però prima era semplicemente un animatore che ha fatto anche, tra l'altro, delle parodie di Metal Gear Solid, ha fatto un sacco di animazioni molto famose negli anni 2000, però ha fatto anche questo video su YouTube dove parlava dell'incipit, dell'inizio di Mega Man X, mi sembra. Mm-hmm. Ed è simile all'inizio di Super Mario, nel senso che ti insegna tutto quello che ti serve del gioco senza dirti nulla. Cioè, tu da solo, provando a premere dei pulsanti, impari come giocare il gioco, che non è un gioco facile. Magari facile nel senso, anche Super Mario magari è un gioco che meccanicamente sembra facile, però in realtà può diventare molto complesso. Cheat Mario Maker 2, cioè livelli impossibili. Cioè, è un gioco comunque che richiede tempismo, richiede abilità, però la cosa che fa Mega Man X è anche darti un obiettivo da raggiungere a livello di gioco, cioè a livello non solamente del livello che devi arrivare alla fine del livello, ma anche a livello di chi vuoi essere tu. Ti fa vedere questo personaggio OP, proprio ultra potente, fighissimo, dici, cavolo, io voglio essere come, voglio potenziarmi come diventare come lui. Che è un po' una cosa che fanno altri giochi, tipo Prototype, dove all'inizio sei strafigo, poi fai tipo, certo, un flashback, o vabbè, diversi Metroid, così. E cioè, appunto, puoi usare questa cosa a tuo vantaggio. Secondo me Dark Souls, se il livello era lo stesso di quello che ho giocato io, cioè che hanno cambiato solamente il fatto di aggiungere queste scritte, secondo me è proprio un problema di, in quel caso, di come è fatto il tutorial, non... del mettere, cioè nel senso, capito, cioè, se volevi farlo così senza dire nulla, è quello il punto, cioè era talmente inapprocciabile che non avevano messo neanche quelle scritte, e poi hanno cercato di rimediare un po', ma comunque è comunque ancora un po' inapprocciabile se uno non sa bene, sì, se uno non sa che infatti quello è un ottimo esempio, secondo me, di incipit, come dire, molto, molto difficile da vivere, molto difficile da giocare, per poi per un gioco che poi, se uno riesce a superare, come dire, questa fase iniziale e riesce ad apprezzare il gioco nella sua interezza, scopre che poi è diventato un gioco cult per un motivo. Solo questo. Sì, se riesci a sopravvivere. Mm-hmm. Comunque. Esatto. Se riesci ad uscire dal manicomio dei non morti. Comunque mi piacciono questi giochi che ti buttano un po' in mezzo. Vabbè, assolutamente. Ho delle menzioni di onore dopo, però adesso magari poi... No, infatti, ma proprio mentre parlavamo di questi qua, anche perché non vorrei che la puntata poi diventasse troppo lunga, un altro di cui volevo parlare, che secondo me rispecchia assolutamente questo esempio, o per meglio dire, sviluppa questo concetto in maniera veramente ottima, è l'ultimo Zelda, Breath of the Wild. Sì. Che, se ci pensiamo un attimo, ha un incipit veramente, secondo me, uno degli incipit migliori di tutti gli ultimi giochi usciti negli ultimi anni. Nell'incipit di Breath of the Wild tu sei Link che si risveglia sempre dal suo sonno di 100 anni con, anche in questo caso, un gioco più dedicato alle meccaniche, quindi con una storia un po' meno, diciamo, presente rispetto agli altri Zelda, però comunque anche qui non nulla di troppo banale, una storia giusta. Si risveglia da questo sonno di 100 anni e si ritrova in questa Hyrule completamente devastata e invasa dai mostri. Solo che prima di poter esplorare tutta la regione come più ci piace, come più desideriamo, il nostro personaggio è intrappolato in questa grande altura iniziale, dove incontrerà un maestro, un tutor che gli insegnerà i comandi di base, ma soprattutto incontrerà, per uscire dalla struttura, dovrà recuperare e dovrà risolvere, affrontare i primi quattro santuari, che sono una meccanica principale del gioco. Questi quattro santuari che, per essere risolti, dopo aver spiegato, diciamo, le regole di base delle varie meccaniche del gioco, come gli oggetti interagiscono tra di loro, come gli elementi, sì, come il fuoco, il ghiaccio, vengono creati e possono interagire, farà vedere al giocatore che degli esempi molto, come dire, eclatanti di queste interazioni, farà vedere che tu puoi fare determinate cose, ma il risultato di queste delle cose che farai non è lineare ma è esponenziale. Cioè, il fatto di poter accendere un fuoco all'inizio era una cosa e poi da quel fuoco puoi usare l'aria calda che ti solleva verso l'alto per sollevarti in volo, e oppure utilizzare ghiacciare ti insegna che... in varie maniere per spostare oggetti, non solo per congelare l'acqua ma per spostare oggetti, per manipolare l'ambiente intorno a te. E questo grande spiazzo iniziale, questa grande altura iniziale con che è tutto un tutorial, tra cui tra l'altro non ti dà un ordine da fare ma semplicemente ti dice sei qua. Finché non riesci a fare tutto non te ne puoi andare, è un ottimo modo per spiegare al giocatore come funziona il mondo di gioco senza però di nuovo spiegargli tutto nei minimi dettagli, ma facendogli provare e soprattutto dandogli solo quei comandi base iniziali che gli servono. È vero. E sarà lui che avendo dei pezzi di Lego, a questo punto potrà metterli insieme e costruire quello che vuole dal mondo di gioco. Ed è per questo che Breath of the Wild si aggiudica uno dei posti più alti nelle mie classifiche dei giochi recenti usciti. Mm. Ho visto che nella tua lista di giochi che ti eri appuntato per questa puntata avevi scritto Portal 2. Secondo te perché il 2 e non l'1? Secondo me il Portal 2 era, come dire, sempre parlando di incipit, ha un incipit molto più impattante e interessante rispetto al primo. Il primo era praticamente quasi tutto, si può definire il suo incipit come quasi tutto il gioco. È un incipit di praticamente un'oretta, o la durata del... adesso non mi ricordo quanto ci vuole per finirlo. Sì, il gioco dura un'ora e mezza e l'incipit l'incipit è tipo un'ora. Perché in realtà ti vogliono insegnare ad usare la Portal Gun con tutti questi, durante le varie stanze da risolvere, con la voce di GLaDOS che ti guida, ti dà ti insulta anche palesemente, e tutto per arrivare a questa mezz'oretta finale di gioco dove riesci a uscire da questo percorso guidato fatto da GLaDOS dall'industria di cui mi sta sfuggendo il nome al momento, come si chiama? Aperture Science Industries, per intrufolarti nei vicoli che ci sono tra una stanza e l'altra e riuscire ad arrivare alla stanza di GLaDOS e distruggerla. Ed è carino, cioè l'inizio sì. È carino, sei tu sì. Come cavia di laboratorio, ti bla bla bla, ti fai tutte le stanze così. Il 2 è molto più impattante, arrivi in questo laboratorio già distrutto di suo e cerchi già di fuggire con questa nuova personalità che non avevi mai incontrato prima. Ti ritrovi di nuovo la Portal Gun in mano, ma una volta che hai imparato ad usarla, dopo non è più tanto la sequenza delle stanze che ti fa vedere come puoi usarla di nuovo, ti vengono introdotti verso l'inizio tutti degli oggetti che puoi manipolare con la Portal Gun o delle altre varie meccaniche che poi vengono risviluppate e rimmaginate nei livelli successivi. Sì, e quindi infatti, l'incipit è veramente un incipit. Volevo parlare di questo, infatti un attimo, vabbè, questo episodio durerà tanto ma c'è troppo da dire, mi spiace. Il fatto che tu nell'inizio di un gioco metti cose che in realtà già ti danno una specie di, no indizio, però già ti svelano il finale se sai dove guardare, che già ti, come posso dire, ti dà tutti gli strumenti che ti servono se tu sai come usarli, mm-hmm. È figa come cosa. Assolutamente. Negli esempi che hai scritto tu, c'è molto questo tema, cioè ricorre molto questo tema, e voglio chiederti un po' infatti cosa, se è quello che intendevi quando l'hai scritti, perché Bioshock ci sono molti indizi su quello che è un momento successivo nel gioco, non voglio spoilerare. Cioè, molto di nuovo, 12 molto anni dopo, ma non esatto, vogliamo non spoilerare. Vabbè, quello veramente non lo spoileriamo perché è importantissimo. Vabbè, è su quello su cui si basa tutto il gioco, praticamente. Shadow of the Colossus è un gioco che ti dà tutti gli strumenti che avrai per tutto il resto del gioco, mm-hmm. Ma ti manca la conoscenza di quello che stai facendo, ti manca esatto. Come interpretare quello che vedi. E esatto. È una un altro cosa bel che... esempio di un gioco che dicevi prima, che ti butta in mezzo alle cose senza sapere bene come fare. Esatto. Quello voglio che devi citare, fare. Purtroppo, scusate, ma in ogni puntata deve esserci... No, aspetta, questo teniamolo per dopo. Fare proprio... Io ci tenevo okay, a fare proprio il sezione, momento. La sezione momento la facciamo dopo. In realtà volevo concludere l'episodio con questa cosa. Vabbè, allora lo concludiamo con lui. Però questa cosa del metterti, del buttarti in mezzo senza darti troppo, ma in realtà, cioè, ritornandoci, ti dà tutto quello che ti serve, o a livello di storia o a livello di meccanica. È una cosa che mi sono reso conto forse con questo episodio, che mi importa molto, cioè nel senso mi piace molto avere un gioco, avere queste... Mm-hmm. Sì, io ritengo che sia essenziale avere un incipit definito come incipit, inteso che un qualcosa che è all'inizio, una volta finito, tu sai tutto quello che ti serve per creare, per giocare il gioco come lo desideri tu. L'incipit è quello, l'incipit ti dice queste sono le mie regole. Le altre regole poi le decidi tu durante il resto del gioco. Skyrim ti dice, io per interagire con il mondo, con gli oggetti, ho questi pulsanti, ho queste meccaniche, ho queste cose qua. Poi decidi tu se vuoi essere un ladro, un guerriero, il Dovahkiin o qualcos'altro. Io ti dico, ti do queste regole e poi dopo tu divertiti come preferisci. E penso che sia una cosa abbastanza essenziale in un gioco, fatto come si deve. Sì, però può essere anche a livello di narrativa, perché se fai un gioco, diciamo, immaginato come un unico lungo tutorial in un certo senso, cioè dove le meccaniche continuano ad aggiungersi mentre giochi, puoi farlo, perché così lo rendi sempre nuovo, sempre interessante, se aggiungi sempre nuovi modi di interagire col mondo, nuove cose che prima magari non avevi notato, è figo. Però, allora, all'inizio devi farlo forse un po' più, come dire, Inclusivo? Inclusivo, o... cioè devi, nell'inizio devi più devi presentare meglio o in maniera più accattivante quello che è, quello che è l'universo narrativo, quello che è il tema magari. Perché, cioè, adesso ripensando appunto all'esempio di Arkham Asylum, di Last of Us, di tanti altri giochi dove nell'incipit non c'è molto a livello di meccanica, sono magari uno o due meccaniche, però a livello di storia è d'impatto. Cioè Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight sono tre incipit che non ti insegnano proprio tutto, anche perché molto del gioco è sui gadget di Batman, per esempio. Certo. Però ti presentano con una magari un nemico interessante, una situazione interessante, o ti presentano con non lo so, con qualcosa di... Scusa, l'avevo in mente adesso perché avevo scritto South Park nella lista. Magari questo lo lascio per la menzione d'onore dopo. Mm-hmm. Con qualcosa di interessante. Esatto, io il punto che volevo cercare di raggiungere con questo episodio era che un inizio fatto bene di un gioco deve fare principalmente due cose. Una è il darti tutte le informazioni, non tutte le informazioni, ma le informazioni minime necessarie per giocare. Non ti deve spiegare tutte le possibilità di controllo, come succede in Zelda, per esempio, perché cosa può succedere se dai fuoco a qualcosa, cosa può succedere se fai esplodere qualcos'altro, eccetera, eccetera, tutte le possibilità. Semplicemente ti deve dire, con questi pulsanti tu riesci a fare questo. E con queste, regole iniziali, dopo il resto del gioco lo giochi tu. Ed è questo è uno dei punti. E il secondo punto è fare in modo che ti venga voglia di giocare il resto del gioco. Come per esempio, appunto, dicevi in The Last of Us, cioè il trauma che affronta Joel all'inizio del gioco, l'apocalisse che si scatena intorno a lui, ti fa venire voglia di sapere come andrà a finire la sua storia. Ed è per questo che ci ricordiamo l'inizio di The Last of Us. Sì. Questo era quello che volevo dirti. Comunque, no, scusa, dicevi, stavo giusto per dire, se non hai altro da aggiungere. No, esatto, allora, se vogliamo passare al... Ok? Menzione d'onore. Call of Duty Modern Warfare, il primo, quello vecchio. Primo livello è un tutorial, ma è anche una corsa a ostacoli a tempo. Dove praticamente me lo ricordo. Assolutamente. C'è questa specie di hangar di addestramento per le unità speciali della Gran Bretagna e devi finirlo e sei cronometrato, quindi devi, che ne so, salire una corda, scendere, tirare una granata di quelle flashbang, sparare a dei cartoni di terroristi, così, e alla fine in base al tempo ti dice la difficoltà consigliata, però è già, dici cavolo, è già competitivo, cioè puoi già prenderlo come un gioco a sé. Fare il miglior tempo possibile. Infatti, sono filmati di persone che lo fanno tipo in 6 secondi. Tra l'altro, menzione d'onore che mi hai fatto tornare in mente, vedi, queste cose qua fanno scatenare sempre. Parlavamo di Halo prima. Un'altra delle cose, delle piccole chicche dei videogiochi che ti sfuggono a chi non è troppo interessato al settore. In Halo, mi sembra il 2 o il 3, non sono sicurissimo, c'è un momento di gioco in cui tipo lo Spartan viene risvegliato e ti dicono... guarda verso l'alto, e questo non lo sanno tutti, se tu muovi l'impostazione della visuale viene impostata a seconda di come premi la levetta quella volta lì per decidere come guardare in alto. Spieghiamo un attimo, invertire, giustamente, cioè, sì. Spieghiamo velocemente, in Halo tu controlli una specie di super soldato. Un super soldato, un tizio che è dentro una tuta, diciamo, cibernetica, un esoscheletro. All'inizio del primo Halo viene risvegliato, ma questo in realtà, questa storia è anche nel secondo, quindi... Okay. Mi sembra non nel terzo, però, se non ricordo male. Nel terzo c'è, ma più veloce. Vieni risvegliato da questa camera criogenica di conservazione, tipo cookie, ti tirano fuori dal freezer, esatto, tirano fuori e ti scongelano e praticamente ti invitano a calibrare i tuoi sistemi, tra virgolette. Siccome Halo è un gioco in prima persona dove tu diciamo, quando guardi lo schermo, la telecamera è quello che vede il personaggio che stai interpretando, quindi stai guardando attraverso i suoi occhi. Il problema è che per spostare, per muoverti, per muovere il personaggio e per spostare la visuale sono due cose molto importanti in quel gioco e molto disorientanti, non so come dirlo in italiano, è un po' complicato, se non l'hai mai giocato. Specialmente diciamo perché... che la cosa principale era che esistono due principali no, aspetta, ci sto arrivando, perché okay, Halo scusami. È il primo gioco, è uno dei primi giochi su console, quindi usando un controller che ha le due levette, che usava entrambe le levette, quelle davanti, per controllare a sinistra il movimento e a destra la visuale. Mm-hmm. Il problema è che, appunto, come stavi dicendo tu, esistono due grandi linee di pensiero, mettiamola esatto. così, di abitudine, per la visuale. Per il movimento è abbastanza normale, secondo me. Quindi se vai a sinistra, il personaggio si muove a sinistra, avanti, va verso avanti, eccetera. Però alla visuale, diciamo che esistono quelli che, guardando, mettendo la levetta verso l'alto, vogliono che il personaggio guardi in alto, e quelli che vogliono che guardi verso il basso, che secondo me sbagliano. No, esatto, è contro natura. Siete vogliono l'asse Y invertita, esatto. Sono probabilmente dei mostri da avranno avuto traumi esatto, sono cascati dal letto. E come dicevi tu, se tu in Halo guardi in alto, quando il tecnico ti dice di guardare in alto, il gioco automaticamente capisce qual è la tua preferenza. Che non è niente, cioè non, è proprio una cazzatina a livello di gioco, però sono quelle cazzatine che fanno dire che bella cosa, però. È vero, grazie che mi hai ricordato questa chicca, non me la ricordavo. Esatto. Altre menzioni d'onore, South Park, la scelta della difficoltà del gioco all'inizio. allora, South Park, per chi non lo conoscesse, è un cartone che io in realtà non ho mai guardato, cioè ho tipo 20 stagioni da guardare. Molto irriverente. Il problema è che è diventato ormai come tipo 300 episodi, una cosa esatto, è complicatissimo da recuperare, però è classico molto umorismo americano. Umorismo americano terribile, anti, cioè proprio politically correct. In assoluto. E questo, in questo gioco su South Park, cioè basato sull'universo di South Park, all'inizio del gioco devi scegliere la difficoltà e la difficoltà è il colore della tua pelle, cioè più... più sei bianco, più è facile, e più sei di colore, più sei nero. Questo non per dire che siamo d'accordo con questa visione del mondo, ma per far capire principalmente come sia l'umorismo, che l'umorismo di South Park si sentire fin dall'inizio con questa selezione. È spettacolare. Per dire come, per mezz'ora. Di nuovo, come un gioco riesce a integrare tutti i suoi sistemi per dare l'idea che vuole trasmettere. Altre menzioni d'onore più velocemente, Firewatch, qualche scelta di storia all'inizio in una specie di libro game testuale, dura pochissimo ma ti mette subito nei panni del protagonista e ti fa subito capire che non importa quello che scegli, la vita è una merda, bellissimo, giocate Firewatch. Mo me lo segno. Se avete giocato un altro gioco simulatore di camminata, tra virgolette, dove dovete solo camminare e andare in posti, tipo Gone Home, tipo... cioè questi se sapete di cosa sto parlando, vabbè... mi segno giusto la puntata simulatore perché di camminata. È un gioco che vi prenderà per il culo dall'inizio alla fine. Altra menzione d'onore, Ghost Trick, se c'è per telefoni, giocatelo, o se no è tipo per Nintendo DS, non mi ricordo. Non vi dico niente, dovete giocarlo, non vi posso neanche spoilerare l'inizio, è bellissimo. Ah, Quarantine Circular, bellissimo, non posso dire niente neanche qui. Chaos Theory, menzione d'onore perché è la mia infanzia, ho giocato la prima missione 50 volte, la voce di Luca Ward è nella mia testa, non me la toglierò mai. Return of the Obra Dinn è bellissimo ed è confermo. Uno di quei giochi che ho giocato all'inizio, diciamo la prima missione, mesi prima che il gioco uscisse, perché era una specie di demo per la tecnologia che c'è dietro, di rende è un gioco in bianco e nero puntinista. Dici, che cazzo è questo matto che si è messo in testa di fare questo gioco con questo stile molto particolare, con questa atmosfera molto alla Lovecraft. E la meccanica di gioco non è nuova, ma è la prima volta che l'ho vista implementata così in un videogioco. Mm-hmm. Ma che cosa di particolare all'inizio che vuoi mettere? Che ti... Non è l'inizio che è particolare, è il gioco che è particolare. L'inizio però mi ha colpito talmente tanto quando lo giocai, quando era una storia a sé, cioè capito, era un po' isolato dal resto del gioco, ok, che mi è rimasto impresso. Ricordi che questa è la puntata sugli inizi e poi avremo tempo di discuterne sì, nei no, vari però, 200. Però... ci anche stava, lì è un gioco che non ti dice, è perché è un gioco che non ti dice nulla, capito? Non ti spiega che cazzo sta succedendo. Ah, beh, sì, di nuovo ti butta molto in mezzo ti alle situazioni. In mezzo, è un altro quindi, esempio di quello che dicevamo qui, esatto, possiamo continuare con l'ultima parte, okay. La conclusione. E come ormai tradizione da un singolo episodio, direi, io vorrei anche creare tipo un jingle da mettere, da montare su questo punto, perché adesso siamo qui, è arrivato il momento Kojima o qualcosa del genere. Kept you waiting, huh? Mannaggia. Sì, diciamo che anche per questa puntata ci voleva il momento Kojima, perché io avevo un gioco in particolare di cui volevo parlare, che mi ha colpito particolarmente per quello che mi sono... per via di quello... mi ha colpito particolarmente... ed è per questo che mi sono informato su di esso. E ho scoperto che effettivamente questa cosa di quello che dicevamo prima, in cui abbiamo fatto l'esempio lampante di Zelda Breath of the Wild, si ritrova anche, secondo me, molto bene nel primo livello iniziale del primo Metal Gear Solid. Il tuo sembra un incipit molto, non tanto banale, ma semplicemente molto piccolo, non molto... sì, non che dura tanto, cioè lo puoi fare in pochi minuti. Tu sei il personaggio principale, Snake, che raggiunge tramite come si dice, nuotando sott'acqua la base segreta di Shadow Moses, e inizia a intrufolarsi senza essere scoperto dai nemici in questo magazzino con un ascensore che porterà al piano superiore, eccetera eccetera. E la cosa interessante è che uno dice, ok, devo solo superare, devo arrivare all'ascensore, che cosa ci sarà mai? Ma in questo livello già si possono notare tutte la filosofia che c'è un po' dietro a tutti i Metal Gear Solid, ovvero quella di piena interazione, di piena, come si dice? Sì, diciamo di intreccio sia delle meccaniche di gioco che di storia e tutto quanto. Come prima cosa, ci sono già tutte le meccaniche possibili per superare i nemici, li puoi distrarre, li puoi combattere, li puoi far addormentare, li puoi uccidere, e altri mille modi. Ehi, di chi sono queste orme? Esatto. ci sono altrettante cose nascoste da poter trovare, razioni di cibo nascoste, munizioni, pistole, armi, nascoste in giro per la mappa per farti intuire che il livello, se uno non ci fa attenzione, li sente come lineari, ma che se uno ci dà un po' più un'occhiata, ci dà un po' più, sì, ci perde un po' più di tempo ad esplorare, vede che le sottigliezze e i trucchi e i nascondigli sono praticamente infiniti. E soprattutto un'altra cosa che aveva fatto, di nuovo, piccolo dettaglio che fa impazzire, si nota che il nemico principale, l'antagonista principale di Solid Snake, che vabbè, che qua spoiler, non diciamo chi è, ma giusto per spoiler, ma Dio santo, sono passati 20 anni, no, circa. Marco, cioè... santi Dio, non farmici pensare. si vede l'antagonista principale di Solid Snake che chiama questo ascensore per andare ai livelli superiori della base, e Snake che lo deve inseguire. È un piccolo dettaglio, ma che se uno ci fa caso, nella cinematica in cui si vede lui interagire con l'ascensore... Cinematic sarebbe il filmato dove non puoi fare nulla. Esatto, sarebbero quei piccoli filmati di intramezzo in un videogioco in cui non puoi interagire con il gioco stesso. È solo un piccolo film. Si vede... questo antagonista che preme il pulsante dell'ascensore, poi lo preme una seconda volta e l'ascensore arriva immediatamente. Ora, se uno va all'ascensore e preme il pulsante una volta, nota che l'ascensore ci mette un po' ad arrivare. Se preme il pulsante una seconda volta, l'ascensore arriva subito. E questa è un'altra piccola sottigliezza che Kojima si diverte a mettere nelle sue cose. Queste cose che non, non servivano queste cose, cioè, non ti serve questa cosa per il gioco, però è quella piccolezza che uno vede e dice, aspetta, ma lui è premuto due volte, magari lo faccio anch'io, succede qualcosa, e viene premiato per questo suo prestare attenzione, questo suo decidere di immedesimarsi nel mondo di gioco, che di nuovo purtroppo, non purtroppo, nel senso, l'avete capito ormai, noi fangirl di Kojima, io penso che Kojima lo riesca a fare come ben pochi nel resto del settore. Sto per dire una cosa controversa. Assolutamente. A me l'incipit di Metal Gear Solid fa cagare. Oh, oddio! Buono. No, non è vero. No, io che speravo di aver creato un'azione qua, invece. No. No, è carino. Non è, magari... Sì, no, anch'io in questo caso non lo guardavo dal punto di vista narrativo, ma sì, proprio come di meccaniche di gioco, cioè come questo suo creare un mondo che fosse completamente interconnesso con il gioco stesso e che ti permettesse di sviluppare e provare e giocare nella maniera che preferisci fin dal primo livello. Ed il primo livello, se ci pensi, questa base sotterranea, questo magazzino sotterraneo più... come si dice, il campo non campo Shadow base, Moses. Non tanto Shadow Moses, mi riferisco proprio al primo livello, quello in campo aperto, dove sei all'esterno della base. Ah, sì, ok. Sì, è proprio un grandissimo sandbox per poter giocare con le meccaniche di gioco, interagire come preferisci con il dovremmo mondo. Dovremmo un attimo eccetera, spiegare eccetera. Cosa vuol dire sandbox. Oh, Dio santo, sandbox concetto. È una parola che esiste. È un concetto un poco... Sandbox è quel rettangolino pieno di sabbia dove giocano i bambini. No, è davvero così. Cioè, sì, lo so che è quello io. No, non lo so spiegare a te, Cristo Dio. è uno spazio di gioco dove hai a disposizione degli elementi che interagiscono fra di loro con cui puoi giocare. Quindi è una mappa tipo... appunto, come dicevamo prima, l'altipiano di Zelda Breath of the Wild è questa mini sandbox nella sandbox più grande, che è tutto il mondo di Zelda, dove puoi esplorare, sperimentare con i giocattoli che sono nel gioco. Esatto. I vari item. È proprio gioco nella sua più pura nella sua versione più pura, proprio. Tu non hai regole, esatto, più libero, non hai vere regole da seguire in questo campo all'aperto, ma puoi fare letteralmente quello che desideri. Per chi, diciamo, un po' conosce Halo, faccio un attimo velocemente un paragone. Halo 2, lo Scarab, il mostro enorme a quattro zampe, non è nella sandbox, è solamente una parte del livello che si muove, è un oggetto in realtà... animato in maniera statica, in maniera predeterminata. Lo Scarab in Halo 3 è un nemico della sandbox, fa parte della sandbox, si muove in maniera dinamica in base ai tuoi movimenti e può essere distrutto quando cazzo vuoi, cioè, per fare l'esempio diverso. Invece, per chiudere il discorso, che parliamo da due ore, Kojima... velocemente, Death Stranding ti butta in mezzo alla storia, non capisci un cazzo, le persone dicono termini che nessuno sa che cosa vuol dire, devi metterci un'ora a capire che stanno dicendo, un po' come noi in questo podcast, e questo è il colpo di scena finale alla Kojima. E invece Metal Gear Solid 5, anche un po' come l'uno e come Death Stranding, ti dà all'inizio un sacco di indizi, un sacco di cose che vedi che alla fine hanno senso. Purtroppo il finale del 5, vabbè, fa cagare, ma questo ne parleremo un'altra volta. Metal Gear Solid 5, che dolore. Ne parleremo un'altra volta, basta. Abbiamo parlato fin troppo oggi, saranno due ore di episodio. Se sono pazzi quanto noi che lo facciamo, quelli che ascoltano, ci può stare. Se siete arrivati fin qui, vi dirò, ho delle chicche per voi, no, come dire, se guardate nella descrizione del podcast, dovrebbe essere in ogni app che state usando, spero, metterò tutti i giochi che abbiamo citato, o quasi, in questa puntata, perché sì, Luca ci ha chiesto di farlo nella scorsa puntata, noi grandissimo. Non l'abbiamo fatto, ma Katamari Damacy era il titolo che si era incazzato perché non l'avevamo scritto nel... giustamente e niente, quindi abbiamo anche dei feedback, sono onorato, esatto, abbiamo dei feedback. niente, scriverò questi titoli lì, ci vediamo al prossimo episodio, spero prima di fra un mese. Nel frattempo ascoltatevi anche il mio Sallotto, che è l'altro podcast. Assolutamente, altro podcast dell'universo podcast genitore. Sallativo. Esatto. Sallativo suona veramente male. Suona veramente male, sembra molto un'altra parola. Sembra un'altra parola. E beh, direi per... da noi è tutto. Del Sal Podcast Universe, ecco come cercavo. Comunque sì, da noi è tutto. Un saluto da Marco, un saluto da... da me. Esatto. E continuate a giocare. Alla prossima. Alla prossima.